Giovedì 27 settembre del 2012, 87.900, la modulazione di frequenza. Questa è Visionari su Radio Onda Rossa. Ogni giovedì dalle 14 alle 15, tutte le informazioni sulla scaletta della trasmissione di oggi le trovate sul sito internet di questa emittente www.ondarossa.info, la voce trasmissioni, Visionari per l'appunto. Allora, procedendo con ordine, diamo subito inizio ai collegamenti con i nostri ospiti, cominciando da un film che sarà in sala da domani, venerdì 28 settembre. Bene, intanto vi ricordo anche i collegamenti per mettervi in contatto con noi. Numero di cellulare per gli SMS in diretta 342 3574 357. E poi per quanto riguarda l'indirizzo di posta elettronica, visionari@ondarossa.info, ma siamo in collegamento con il nostro primo ospite, Ruggero Di Paola, regista del film Appartamento ad Atene, in uscita domani in sala 28 settembre. Ruggero, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Come va? Ma bene, bene, siamo concentrati sull'uscita del film dopo la conferenza stampa e quindi siamo molto contenti. Ricordavo oggi il curioso episodio, insomma, io sabato pomeriggio avevo scritto la recensione al tuo film e la sera casualmente ci siamo conosciuti. Sì, infatti. A casa del moderatore della conferenza stampa. Tra l'altro, ecco. Esatto. Tutto torna. Senti, Ruggero, io comincerei dalle avventure che hanno fatto arrivare il film in sala, perché ha cominciato il suo iter festivaliero ad ottobre dello scorso anno, arriva nelle sale italiane oggi e quindi è passato più o meno un anno. Sì, il film era pronto infatti a ottobre dello scorso anno, ha avuto la prima nazionale ed europea al Festival Internazionale del Film di Roma, dove ha vinto anche il premio della sezione Giovani Cineasti Italiani, e quella mondiale a Mumbai, e da lì ha fatto un percorso festivaliero nel corso dei mesi. Ed eravamo pronti, a dire il vero, per uscire già ad aprile o maggio, sì. Però abbiamo scelto di spostare l'uscita perché nello stesso periodo usciva il film di Laura Morante, esordiente regista in più attrice, e diciamo non era proprio, come dire, la soluzione migliore uscire in contemporanea. Sì. E ci sono state delle proposte per la distribuzione e l'uscita del film nei mesi successivi, giugno, luglio, agosto, però come dire, ci siamo tutti un po' tirati indietro, perché nonostante lo spazio durante quei mesi per i film italiani sia molto di più rispetto a una stagione come quella di settembre, ottobre, novembre, dicembre, il crollo degli incassi che c'è naturalmente ci ha spaventato, e poi ex post vediamo che quest'estate è stata veramente dura, sì, per tutti, sì, i film, sì, sì, non solo quei pochi italiani che sono usciti, ma anche europei anche che sono usciti, ma anche per qualche altro film importante americano, complice il grandissimo caldo e l'europeo, dove l'Italia fortunatamente è arrivata fino alla finale. Mm-hmm. Senti, Ruggero, in questo però periodo di pausa ci sono stati una quarantina almeno di festival internazionali e diversi riconoscimenti, quindi significa che il 51, mi sembra 51, però cambia ogni giorno, nel, sì, senso, certo, che continuano a richiedercelo, quindi va bene. Con diversi riconoscimenti poi. Sì, dopo Roma abbiamo vinto a Phoenix, a Los Angeles, al MIF a Milano, il Globo d'Oro come miglior opera prima, che è il premio assegnato dalla stampa estera ai migliori film della stagione, ed è stato un premio molto bello perché sulla fiducia, perché solitamente i Globi, i Nastri e i David assegnano candidano i film e assegnano poi i premi dopo che sono usciti in sala. Il nostro film non era uscito, però aveva avuto una circuitazione interessante, aveva vinto 25 premi in giro per il mondo, e la stampa estera l'ha voluto vedere candidare, e poi ha vinto anche il Globo d'Oro. Ruggero, allora, per chi ci ascolta ed è interessato ad andarlo a vedere, come lo racconteresti in breve? Ma è la storia della famiglia Llanos, a cui viene requisito un appartamento, il loro appartamento, per ospitare un ufficiale tedesco nel 1943 ad Atene. La famiglia è composta da moglie, marito e due figli, una bambina di 13 anni e un ragazzo di 12. L'arrivo del capitano sconvolge, rivoluziona la vita e le abitudini di tutta la famiglia. Gli Llanos da prima si sottomettono, remissivi, ma dal momento in cui il capitano Calter è richiamato per 2 settimane in Germania, esplode la gioia. Al ritorno il capitano è cambiato, è più indulgente, gentile, e per la famiglia è un sollievo, però li attende un epilogo inatteso. È una storia di libertà morale e spirituale, una storia di resistenza, come dico spesso. Per me era interessante raccontare, ancor più che il periodo della guerra, il rapporto che si instaura all'interno di un conflitto confinato tra quattro mura domestiche, il rapporto tra aguzzini e servitori. E anche era molto interessante lo scaturire di tutte le dinamiche familiari, con la presenza dell'ufficiale tedesco. E quando dico dinamiche familiari, non solo quelle nei confronti dell'invasore o dell'occupante, ma anche quelle tra di loro, tra marito e moglie, tra figli e genitori. Alle origini c'è l'omonimo romanzo, ma anche degli echi familiari. Sì, il film è tratto dal romanzo di Westcott, Appartamento ad Atene, che è stato pubblicato la prima volta nel 1945 negli Stati Uniti, è stato poi ripubblicato negli anni 2000 in varie nazioni, sia in Europa che in America e in Asia, ma da Adelphi nel 2003. È stato adattato da Aydrun Schleff, da me, da Luca De Benedittis per lo schermo. E sì, poi devo dire che anche se dopo la scrittura della sceneggiatura mi sono reso conto di alcune cose, c'è una componente autobiografica, perché mia madre ha avuto durante la Seconda Guerra Mondiale un tedesco in casa che si chiamava Helmut, ma che fortunatamente, nonostante fosse un ufficiale dell'SS, era un uomo più rispettoso e mite del personaggio del film, del comandante Calter. Pensa, aveva anche un cane, come nel film, a cui venivano dati gli avanzi dei pasti per saziarlo, e lui scelse questo appartamento, dove poteva essere ospitato sia per pranzo, per cena, e non in periodi alterni anche di notte, perché era molto comodo, e la famiglia di mio nonno, da parte di madre, era benestante, perché all'epoca avevano una macelleria, differentemente da quella di mio padre, che in Puglia mangiava le lumache in tempo di guerra. Oh, Ruggero, la prima cosa che viene in mente è vedendo il film, anche per reminiscenze, la sindrome di Stoccolma. Sì. Era già nelle intenzioni, o sono dinamiche, secondo te, universali? Non so, come ci sei arrivato a mettere in campo queste dinamiche? Ma guarda, è venuto naturale, perché già nel libro è presente, sì, questa componente, però ripeto, non è l'unico aspetto, certo, perché erano molto interessanti anche le logiche che scaturivano dalle dinamiche familiari. Infatti il film si apre con i figli e si chiude con la madre. Il capitano tedesco farà di tutto per separare, disunire, distruggere questa famiglia, che nonostante tutto alla fine della storia si ritrova sempre più unita, anche grazie al ruolo della madre, che ha un ruolo molto forte, dignitoso, e insospettabilmente del padre, nonostante fosse quello che mitigava di più cercava di mitigare di più i conflitti che c'erano tra la famiglia e il capitano tedesco. Per la trasposizione dalla pagina allo schermo, su cosa hai voluto lavorare in particolare? Differenze, per esempio, quali differenze o quali cose invece hai valorizzato? Ma sicuramente abbiamo lasciato più in disparte il contesto storico. Si parte ovviamente da un contesto storico, ma siamo stati più attenti ai personaggi e alle loro storie, alle loro emozioni. Il personaggio di Zoe Lianos, della madre, rispetto al libro è differente, perché, come dicevo, è una donna forte, dignitosa, piena di orgoglio, ancora bella, mentre invece nel libro è una donna ansiosa e cagionevole, che anche soffre di problemi di cuore. La bambina nel libro viene descritta come una sorta di bambola ritardata, nel film non lo è assolutamente, una bambina sognante che ha avuto uno shock derivato da una strage a cui ha assistito in una piazza durante un mercato. E rispetto al romanzo poi cambia il finale, nel senso che il finale era più aperto rispetto al nostro, ma non parlo solamente delle ultime due inquadrature, parlo degli ultimi 20 minuti del film. E poi è un film, almeno dal confronto che ho avuto con il pubblico, seguendolo in tutti i festival, sia in Italia che all'estero, che mi sembra che faccia anche sorridere, se non ridere, probabilmente per il ruolo che ha Alex, che è un bambino ribelle, vendicativo, maidomo e pieno di sarcasmo. Quindi quando compare in scena, sia nei confronti della sorella, nei confronti della madre, del padre, del capitano tedesco, ci sono molte situazioni dove lui, con il suo sarcasmo, stempera, fa ridere, stempera tutta la suspense e l'attesa che c'è nel film. Oh, un altro elemento secondo me cruciale che mi è venuto in mente vedendo il film è, visto che comunque si parla di Grecia, c'è all'inizio uno scorpione e la favola della rana e dello scorpione, che fa venire in mente anche rispetto alle dinamiche umane ed emotive, ci sono delle radicali differenze per formazione, per ideologia, per cui un uomo cresciuto e formatosi su un'ideologia, come scrivo, mortifera, non può che comportarsi di conseguenza. Sì, certo, questo è vero. Se poi vogliamo analizzare un po' di più il personaggio del capitano Calter, lui è secondo me non è un folle, ecco, è una persona intrisa dell'ideologia nazista. Sì. Poi è un uomo che è colto, che adora la musica, adora gli animali, come anche molti nazisti, come Eichmann, però intriso di una fortissima ideologia nazista e convintissimo soldato e ufficiale votato al Führer. Sì. Senti Ruggero, da domani nelle sale quante le copie a disposizione? Allora, il film uscirà in 50 sale in tutta Italia e sarà presente da domani e poi nelle sale a Roma, a qualche sala posso anche segnalarla, nel senso che a Roma sarà al Cinema Fiamma, all'Intrastevere, alla Roxy Parioli, al Maestoso, a Milano sarà al Centrale, a Torino all'Ambrosio. Poi ci saranno anche altre città, insomma, esce in tutta Italia. Bene Ruggero, allora un in bocca al lupo, a risentirci alla prossima. Grazie mille, buon lavoro, ciao, buon pomeriggio a tutti, ciao. Ciao. Ruggero Di Paola, regista di Appartamento ad Atene, in uscita nelle sale domani 28 settembre. Oh, Massimo Vattani, leggo qui sulla scaletta direttore di contest per presentare la nuova stagione. Intanto Massimo, ben ritrovato, è sempre un piacere. Ben trovato anche a te, questa questione di essere qui nonostante il Batman, la Polverini. No, nel senso che andrebbero anche ricordati quali sono nello specifico i soldi che hanno sottratto per pagarsi tutto quello che è stato detto, fra cui 38 milioni alla cultura. E se tanti di coloro che ascoltano la radio, tanti dei addetti ai lavori che contatti per questa stupenda trasmissione hanno spesso a che fare con giri istituzionali o meno per reperire fondi magari per fare un documentario o magari frequentando la regione, la provincia e conoscere leader drammatico di richieste culturali alte che invece vengono sempre ricompensate con risposte tipo non abbiamo i soldi, non abbiamo questi fondi, per cui in realtà il livello di arrabbiatura dovrebbe essere un po' più alto, perché a queste notizie fa il paio appunto i tanti festival che chiudono, la tante difficoltà di proporre dei film in sala e tutte le storie che sappiamo. E quindi sì. Nonostante questo possa funzionare con degli elementi di rabbia evidenti, possiamo sempre dire che siamo qui nonostante il Batman, molto complicato. Le feste in costume vengono preferite, alla... Esattamente. Allora Massimo, mi parlavi di questa nuova stagione, ci sono già alcune date, però facciamo un po' una prospettiva un po' più generale di presentazione. Sì, già come è successo lo scorso anno, avendo la necessità di collocare un po' meglio l'inizio del contest 2013, la rassegna che propone i documentari in sala, in qualche maniera i due anni anche di contest hanno reso più stabile una richiesta di proiezioni, materiali che arrivano in grande continuità, e allora abbiamo coniato questo termine che è Aspettando Contest, che in realtà non rimanda all'appuntamento magari lontano qualche mese, tralasciando i tanti lavori interessanti che vengono fatti, e casomai li sistemizza anche per abituare, se vuoi, o comunque confermare per gli spettatori e le spettatrici del Cinemag, in questo caso, quanto il filo ricomincia, e poi chi vuole seguirlo può arrivare anche alla rassegna del contest, che quest'anno, come sai, essendo una rassegna ibrida, cambierà sicuramente pelle, mantenendo però appunto le caratteristiche principali che le hanno contraddistinto i primi due anni. Quindi questo Aspettando Contest, in questo prossimo mese di ottobre, iniziando da stasera con la proiezione di Nei Secoli Fedele, caso Giuseppe Uva, inizia appunto questa programmazione che in questo mese vedrà appunto proporre quattro documentari. Magari del programma ne parleremo leggermente dopo, se vuoi, insomma. Certo. Allora, intanto il luogo resta il Nuovo Cinema Aquila, e visto esatto. Che non si tratta della prima edizione, Massimo, sai che come trasmissione siamo sempre piuttosto attenti in particolare a cosa si muove nel mondo del documentario. Ecco, una tua valutazione in proposito rispetto proprio a quanto si muove, a quanto fermento c'è, e poi anche rispetto alle scelte che porterai avanti nella selezione dei titoli, se hai voluto dar seguito a un filo conduttore. Il contest dell'altro anno, con la preziosissima collaborazione dei diari del Novecento di Stefano Grossi, appunto proposto 10 documentari che nell'affrontare il tema delle memorie avessero anche appunto alcuni riferimenti della storia del Novecento. È stato assolutamente un successo, perché questo format, che si compone di clip di 3 minuti e mezzo l'una, intervistando o narrando episodi appunto del Novecento, è stato l'elemento portante. Sì. Il fatto di poter cambiare pelle è quello, anche forse l'idea che ti anticipo, ma che ancora va assolutamente sviluppata, è quella di realizzare invece il contest in un periodo più breve e caratterizzarlo come un vero e proprio concorso italiano di documentari. Diciamo, questo non deve essere visto un elemento di sottrazione, ma nasce appunto dalla prima questione che ponevi tu. Non so per quale motivo, anche se per un motivo di resistenza alle cose che vanno nel peggiore dei modi, come abbiamo descritto prima, la produzione documentaria oramai rappresenta un elemento non più di novità ma una costante, e questo, diciamo, aumenta a dismisura appunto le necessità di proiettarli. Questa produzione infinita non può rimanere una produzione che si caratterizza soltanto nelle edizioni del festival, e dove magari qualcuno anche ritarda molto la conoscenza o la diffusione dei documentari realizzati, spesso troppo attratti dalle premiere, avere la possibilità di essere i primi. E quindi, diciamo, l'elemento fondamentale della rassegna è appunto confermare questa forma di accoglienza e di distribuzione, anche se non diretta, riproponendo poi i vari film ospitati in contest e in tante rassegne ancora a Roma o in altre città d'Italia. E l'elemento fondamentale, appunto, nel momento in cui si dà un'attenzione particolare ai documentaristi affermati, come dire, o registi e registe che oramai hanno al loro attivo moltissimi lavori di una certa importanza, è stimolare appunto questo sguardo più a 360 gradi, visitando festival non convenzionali e cercando appunto quelli che possono essere definiti i nuovi documentaristi e nuove documentariste di domani. Insomma, in questo è la conferma della rassegna. Evidentemente, nel caso di stasera, affrontiamo e iniziamo con uno di quei documentari che provoca tanta amarezza, perché ci troviamo di fronte all'ennesimo caso, come definirlo, soltanto di mala polizia, è anche abbastanza limitante, perché ci ripropone davanti agli occhi e nella narrazione dei racconti delle storie che nell'ultimo periodo in Italia si sono verificate molto frequentemente. Vale a poco ricordare che la morte di Stefano Curchi, di Aldrovandi, di tantissimi altri appunto che sono rimasti invischiati in questo modo di gestire il controllo o la repressione appunto che ha portato a diverse morti. In questo caso è un nuovo caso che è scoppiato a Varese nel 2008, che al limite appunto viene portato alla luce grazie a una intervista delle Iene, e che ha perduto un po' di tempo per mettere appunto quella che è una denuncia precisa di quello che è venuta a definirsi una morte naturale, che invece, come al solito, presenta molti aspetti che vanno affrontati per restituire, se non altro, la verità per i familiari che la vanno cercando. Quindi il film di cui parliamo è appunto il caso Giuseppe Uva. E ne parleremo anche con Adriano Chiarelli, il regista, subito. Adriano Chiarelli e Francesco Menghini, penso che sarà, essendo l'anteprima nazionale, diciamo, credo anche con questa idea di sostenere appunto questi lavori che vanno in questa direzione, perché gli elementi che i registi hanno messo in atto sono una precisissima analisi di tante registrazioni integrali, di verbali, di testimonianze rese davanti ai PM, di indagini difensive, cartelle cliniche, verbali d'arresto e relazioni di servizio dei sei poliziotti e dei due carabinieri che trattennero Giuseppe Uva. Insomma, purtroppo credo nella narrazione, nella visione, non vedremo confermate altre notizie, altri avvenimenti, altri modi di fare già conosciuti, avendo seguito da vicino altre storie per le quali è stato magari anche in alcuni casi realizzate delle forme documentarie, e credo appunto che questi lavori abbiano il grande merito di mantenere alta l'attenzione, e per quello che possa servire, perché spesso questo non è neanche un elemento che frena, diciamo, questa gestione all'interno delle caserme di polizia, appunto rappresentare una testimonianza. Sarà, credo, un'occasione importante, perché essendo l'anteprima nazionale, credo che, come quando questi fatti vengono alla luce, la sera di stasera, come tante altre cose, sarà, credo, una tappa importante per proseguire con la stessa intensità nei mesi prossimi. Massimo, due cose. Allora, la prima è una mescolanza di discipline artistiche che mi è sembrato la tendenza dell'ultima edizione di Contest, che ha coinvolto in qualche modo anche la letteratura, e quindi volevo sapere se questo approccio continuerà. E poi una tendenza dei festival più territoriali, più locali, è quella di ampliarli nel corso, diffonderli nel corso dell'anno. Tu dicevi che prima che i tempi avete deciso di restringerli della rassegna Contest, però volevo sapere anche da te se questo prevederà anche altri appuntamenti durante il corso dell'anno. Oh, assolutamente sì, perché diciamo questa sistemizzazione dei film, delle grandi richieste che arrivano al Cinemavia chiedendo spazi appunto per le proiezioni, nascono appunto da questa grande produzione. Nei quattro film previsti a novembre troveremo alcuni documentari provenienti dall'ultima edizione delle Giornate degli Autori al Festival di Venezia, come nel caso di Terra Matta di Costanza Quadriglio, e se vuoi in qualche maniera anche invece aggiungendo un certo senso di rivolta o di stanchezza alla consuetudine che ci viene sbattuta davanti. Diciamo, l'intenzione anche di questa proposta di documentari è anche proporre documentari che in qualche maniera non siano soltanto momenti di narrazione, di approfondimento di alcuni fatti o alcuni temi in particolare, ma che nel momento in cui fanno questo prospettino, facciano intravedere anche tra le righe un minimo senso di rivolta, di insopportabilità. E a questo proposito è chiaro che non posso, ma ti chiederò di avere più spazio più avanti nel mese, perché si tratta di un'occasione importante. Il terzo documentario che proporremo il 22, il 23 e il 24 ottobre sarà appunto Le Seclé di Sylvain Georges, che in realtà è il primo documentario internazionale ospitato dal Contest, ma che è un vero manifesto di come possa essere narrata in termini meno vittimistici o meno così scontati la questione dell'immigrazione. Mm-hmm. Sylvain Georges è un autore importante, chi lo conosce sarà felicissimo di poterlo vedere proiettare a Roma uno dei suoi film, per chi non lo conosce sono disposto a mettermi in gioco nel consigliarvi appunto una visione di questo film. La possibilità di vederlo è dato da una pregevolissima iniziativa a nome Paola Cassano e Caterina Renzi, che stanno provando appunto di far emergere questo film ancora senza distribuzione, nonostante stiamo parlando di un capolavoro, e provano appunto ad organizzare e a gestire con la serie di piccoli eventi una diffusione migliore di questo film e in genere della cinematografia di Sylvain Georges. Questo si ripeterà per mesi fino al punto a cui arriveremo all'inizio del Contest, che nel caso dovesse prendere questa strada che stiamo sottoponendo di adesso, sarà sicuramente un concorso di doc italiani più lungo nel tempo, e dove la collaborazione con queste forme multimediali, utilizzando e vivendo in collaborazione con altre arti, oramai è una componente che difficilmente il Contest può rinunciare, se non altro per il grande livello delle collaborazioni, per il modo in cui si è lavorato insieme lo scorso anno, ma sostanzialmente anche perché è un'unione di intenti che produce delle cose che la gente in questo momento mi sembra che ritenga assolutamente interessanti, quindi non c'è nessuna chance di poter cambiare in corsa, se non una decisione Karakiri e qualcosa appunto che decida di cambiare impostazione. Invece lavoriamo per portare i documentari in sala, e quindi questo è evidente e così sarà. Per quanto riguarda il programma, possiamo dare come riferimento il sito internet del Nuovo Cinema Aquila, immagino. Assolutamente, ci sono i tre film che ti ho detto, e chiudiamo il 29 e il 30 poi con un lavoro, un'opera prima di Francesca Balbo, che nel 2010 ha vinto con questo soggetto il premio Solinas per la sceneggiatura, che ci riporta un angolo della Sardegna con dei lavori storicamente ereditati dal punto di vista femminile, che si chiama Cadenas, e sarà anch'essa un'occasione appunto per far conoscere il lavoro di Francesca a Roma, un lavoro fatto con molta delicatezza e molta attenzione. Sì, sì, e man mano appunto avremo l'occasione di proporre altri documentari, e sarà il caso che ti darò di nuovo fastidio chiedendogli un altro spazio. Allora, a presto Massimo, un abbraccio. Grazie come sempre. E buone cose per Contest. Ciao. Ciao ciao. Allora, di nuovo vi ricordo i contatti per inviarci SMS in diretta. Il numero è 342-357-4357, l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info. Proseguiamo. È con noi Adriano Chiarelli, regista del documentario Nei secoli fedele, il caso di Giuseppe Uva, come ha ricordato prima Massimo Vattani, sarà oggi al Nuovo Cinema Aquila per l'anteprima, la presentazione ufficiale. Adriano, intanto benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Salve, salve, buonasera. Allora, partiamo da questo caso. Come ne sei venuto a conoscenza, come è venuta l'idea di affrontarlo e come lo hai affrontato? Sì, il caso di Giuseppe Uva l'ho incrociato durante le ricerche che facevo per un altro lavoro precedente al documentario, cioè il libro alla polizia. E, ho scelto di raccontare questo caso in particolare perché presenta degli errori macroscopici che poi si sono rivelati tali e definiti tali anche grazie al giudice Orazio Moscato, che dopo un processo di 4 anni a carico di un medico che non c'entrava niente ha dato un impulso, cioè sta per dare un impulso decisivo ad un nuovo processo più vicino alla verità. Infatti il medico è stato assolto e quindi assolto dall'accusa di aver ucciso Giuseppe Uva per un'errata somministrazione di farmaci, ed è stato praticamente ordinato in sede di sentenza di andare a indagare le ore che Giuseppe Uva ha trascorso in caserma subito dopo l'arresto, ovvero 3 ore in cui non è dato sapere cosa sia successo. 3 ore dopo le quali è stato trasportato in ospedale con un trattamento sanitario obbligatorio, andando così, insomma, dopo il morto, dopo 4-5 ore di ricovero. Senti, per chi non conosce questa vicenda, come si svolsero i fatti? Perché fu fermato Giuseppe Uva? Perché si trovava per strada con un amico in stato di ebbrezza. E spostava delle transenne creando problemi al traffico. Qualcuno chiamò i carabinieri, che intervennero subito. Arrivò una gazzella con 2 carabinieri e dopo un po' vennero anche 2 pattuglie della polizia a dare dei rinforzi, perché insomma ci fu un arresto abbastanza concitato. E cioè, i problemi continuarono anche dopo il trasporto in caserma, dove l'unico testimone, cioè Alberto Bigiorgio, lo racconta ormai da anni di aver sentito un vero e proprio pestaggio. L'unico testimone che tra l'altro non è stato mai ascoltato nel processo che è finito, ricordo, ad aprile, 26 aprile. Ecco, a questo... Quindi, scusa, stavi continuando. Quindi, insomma, questo documentario più che... cioè, al di là della valenza filmica, cinematografica, è più importante perché vorrei, spero, che desse un impulso decisivo alla partenza del nuovo processo. Ecco, nella preparazione del documentario, su quali fonti ti sei, da quali fonti hai attinto a livello di documentazione ma anche di interviste? A livello di documentazione, tutto il fascicolo del processo contiene praticamente tutti i passaggi dettagliatamente, gli interrogatori dei testimoni, testimoni per esempio del personale sanitario, oppure i verbali redatti dai 6 poliziotti e 2 carabinieri che hanno arrestato Giuseppe Uva, tutti scritti alla stessa maniera, in cui sostenevano che fosse Uva a dare in escandescenza, a creare problemi, quindi sì, cioè, rendendo così necessario il trattamento sanitario obbligatorio, le cartelle sanitarie, le radiografie, le perizie sugli indumenti, questo è un fascicolo al quale poi si è arricchito dopo la riesumazione di Giuseppe Uva, sempre ordinata dal giudice, per sottoporre la salma a delle nuove analisi. Da qui sono uscite altre cose, nel documentario racconto, ovvero segni che nella prima autopsia non erano stati rilevati, e tutta una serie di cose che poi hanno portato questo processo a chiudersi in questo modo, cioè con l'assoluzione del medico. Adriano, parlerei anche del titolo. Come mai Nei secoli fedele, il caso di Giuseppe Uva? Perché questa scelta? E poi quali sono le impressioni che hai ricavato da tutta questa vicenda? Nei secoli fedele l'ho scelto perché è il motto dell'Arma dei Carabinieri. Sì. E perché tutta questa vicenda è nata proprio da loro. Non è, forse può sembrare provocatorio, ma non è certo colpevolizzante ancora, perché allo stato attuale non ci sono né carabinieri né poliziotti al processo, però se non ci fosse stato quell'arresto, con tutto ciò che ne è conseguito, penso Giuseppe sarebbe ancora vivo, non staremmo parlando di questo. E l'impressione che ne ho ricavato, l'impressione è che Varese non sia una città facile dal punto di vista della sicurezza, perché è una città molto benestante, borghese, capitalista, tutti i personaggi come Giuseppe Uva, come Bi Giorgio, come tanti suoi amici che ho intervistato per il documentario, magari che qualcuno potrebbe definire borderline, ma che borderline non sono, perché sono persone normali, ma che comunque hanno problemi ad affrontare la quotidianità. Tutte queste persone a volte sono viste male. Varese è una città piccola, quindi si tratta di un manipolo di 30-40 persone che vengono ghettizzate, emarginate e tenute d'occhio costantemente dalle forze dell'ordine. Quindi diciamo che i mesi trascorsi su per girare non sono stati allegri, ecco. Adriano, che percorso avrà il tuo documentario dopo questa presentazione di oggi, di questo pomeriggio al Nuovo Cinema? Allora, abbiamo avuto un po' di inviti in giro, soprattutto al nord, anzi, ora che mi ricordo, vengo a ringraziare anche il centro sociale Paci Paciana, che ci ha dato una mano con un piccolo finanziamento in un momento critico in cui rischiavamo addirittura di non riuscire a continuare. Quindi la prossima proiezione sarà a Bergamo, a Paci Paciana, in realtà in un auditorium preso per l'occasione. Poi stiamo organizzando date in giro a Napoli, Milano, dovremmo andare a Pisa, poi ci sarà a Genzano il 19, forse il 22 a Roma in occasione della commemorazione di Stefano Cucchi, insomma diverse date che man mano aumentano, e poi stiamo lavorando a una distribuzione. E per avere maggiori informazioni, c'è a disposizione un sito internet? Stiamo aprendo anche quello. Siamo pochi e con poche risorse, però insomma stiamo facendo fronte, il sito è previsto, è il sito della società principalmente con la quale ho prodotto questo documentario, la Soul Crime, ecco, tutti gli aggiornamenti del caso saranno lì. Bene. Se no la solita pagina Facebook, che comunque funziona, è abbastanza seguita. Bene, allora ci terrà informati rispetto al sito internet. Adriano, ricordiamo l'appuntamento di quest'oggi, l'orario al Nuovo Cinema Aquila? Sì, al Nuovo Cinema Aquila alle 19, ingresso gratuito, e insomma vi aspetto in tanti. Un abbraccio e a risentirci presto. Ciao Adriano. Grazie, a presto. Ciao. Adriano Chiarelli, regista del documentario Nei secoli fedele, il caso di Giuseppe Uva. Questo è Visionari su Radio Onda Rossa ogni giovedì dalle 14 alle 15. Allora, un'altra delle voci che ha attraversato queste frequenze e questi microfoni, Bruno Federico, ci sei? Sì, ci sono. Oh, intanto ben ritrovato con te per parlare del tuo nuovo documentario El Gigante. Di cosa si tratta, Bruno? Allora, il gigante parla della resistenza di un gruppo di contadini, di pescatori, ma anche di studenti, di gente che vive in una vallata del fiume Magdalena, in Colombia, nel sud della Colombia, contro la costruzione di una diga che si chiamerà la diga del Quimbo, che è una diga che costruisce in pregilo per l'italiana Enel. Diciamo, è realmente per Endesa, che è una società spagnola, che però il cui capitale azionario è completamente Enel, quindi è Enel. Quindi il documentario racconta un anno di questa resistenza, un anno che abbiamo in cui diciamo, abbiamo potuto condividere tutte diverse tappe di questa resistenza, da un inizio di tappe più discorsive e più argomentative da parte degli oppositori, che hanno cercato in tutte le maniere di trovare un appoggio nelle istituzioni, negli enti di controllo governativi, affinché fermassero questo progetto che aveva delle evidenti falle, diciamo, dal punto di vista, da un sacco di punti di vista. Alla fine ovviamente c'è stato un silenzio completo da parte delle istituzioni, loro si sono visti obbligati a resistere fisicamente, diciamo, allo sgombro da parte della polizia, appunto per far iniziare i lavori di deviazione del fiume. Oh, è una vicenda che stai seguendo da diverso tempo, quali sono le prospettive? Allora, le prospettive sono molto interessanti, perché nonostante all'inizio il primo viaggio è stato a luglio dello scorso anno, siamo andati un gruppo di persone a conoscere un po' questa realtà di resistenza, era un gruppo abbastanza ridotto di persone che si vedeva contrapposto a un gigante immenso, e quindi noi pensavamo niente. Purtroppo temevamo che finisse come un po' molto spesso finisce, che questo tipo di resistenze vengono spazzate via a favore degli investimenti delle multinazionali, a favore, diciamo, del cosiddetto progresso. E invece non è successo questo, perché loro sono stati, cioè sono, non sono tantissimi, ma comunque sono la gente che vive nella zona che verrà inondata. Sono circa 1.000-2.000 persone e hanno resistito lì direttamente, hanno prima fatto un sacco di denunce, sono riusciti a far sospendere i lavori per alcuni mesi, poi successivamente hanno fatto un sacco di manifestazioni, ci sono stati degli incidenti, e questi incidenti hanno fatto anche il giro, hanno avuto un enorme eco nell'opinione pubblica colombiana e mondiale, grazie a un video che abbiamo girato e che è montato e messo su YouTube dai ragazzi che stavano lì, di Assoquimbo, che è l'associazione che si oppone alla costruzione di questa diga, è stato riprodotto 1.100.000 volte, per cui addirittura il presidente è dovuto intervenire, tutto un casino. E dopodiché ci sono stati dei violentissimi scontri più o meno tra febbraio e marzo, ma praticamente ormai l'impresa, ormai in pregiudizio era in ritardo con la tabella di marcia, per cui il periodo utile per deviare il corso del fiume e seccare la parte dove dovrebbe essere costruita la diga, il muro, è passato, quindi ci sono state le piene, ma non ci sono riusciti. Mm-hmm. Quindi all'oggi hanno un ritardo di circa un anno sulla tabella dei lavori, e in quest'anno nel frattempo anche la strategia giuridica, diciamo che è una strategia che è andata molto molto a rilento, però ha dato i suoi frutti, per cui c'è una denuncia per il momento contro l'ufficio che ha dato il permesso per la costruzione della diga, per corruzione e disastro ambientale e deterioramento del patrimonio pubblico per circa 250 milioni di euro. Per cui Il documentario, secondo me, cioè il documentario, questa storia è una storia interessante, perché è la storia che dice che comunque si può fare, cioè ci si può, è molto difficile, a volte sembra una lotta contro titani, però non è vero che sempre vincono loro. Anche perché mi sembra che, insomma, una mobilitazione costante e una comunicazione diffusa, insomma, dei risultati li ottengano. Senti Bruno, per quanto riguarda El Gigante, dove sarà possibile, allora intanto se ci sono in rete materiali informativi in proposito, se c'è un sito internet in qualche modo che se ne occupa, e quali saranno i prossimi appuntamenti, le prossime presentazioni, se sono già previste? Allora, rispetto alle presentazioni, per adesso presentazioni previste non ce ne sono, perché l'abbiamo appena chiuso. Sì. Diciamo, l'unica presentazione che abbiamo fatto, che poi c'è pure un aneddoto piuttosto simpatico, è stata il 26 giugno la presentazione di un taglio ancora non definitivo che l'abbiamo presentato a quelli di Asso Ghibbo, per cui nella piazza principale del municipio del Gigante abbiamo presentato circa 200-300 persone che hanno visto questo primo montaggio. Per adesso l'abbiamo appena concluso e stiamo aspettando alcune risposte. Abbiamo deciso di giocarci il gratta e vinci dei festival. Stiamo aspettando a vedere se succede qualcosa. Se non succede niente, cosa che immaginiamo e sospettiamo, lo inizieremo a fare un'agenda di presentazione a partire da novembre. Sì. Sito web, siamo in ritardo drammatico, ma presto ci sarà. Va bene, allora aspettiamo tue notizie e nel frattempo un abbraccio e un a risentirci presto. Va bene, un abbraccio e un saluto a tutti e tutte. Ciao Bruno. Ciao ciao. Bruno Federico, regista del documentario El Gigante. Bene, siamo in collegamento con Riccardo Zoffoli di Prospettiva Video, regista del documentario La Montagna di Sapone, che è già su Vimeo, per quanto riguarda la scaletta della trasmissione di oggi, sul sito internet della radio www.ondarossa.info, la voce trasmissioni visionari, già ho messo il link, per cui è visionabile. Riccardo, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, ciao a tutti. Come va? Un po' stanco, attaccato ai sei da lavoro, però è uguale, dai. Allora, noi seguiamo sempre con attenzione i lavori di Prospettiva, che poi li mette gratuitamente online. E in questo caso un tuo lavoro, parlacene un po', La Montagna di Sapone, di cosa si tratta? La Montagna di Sapone, allora, prima di tutto volevo ringraziare Prospettiva perché ha ritirato fuori il suo lavoro che ho fatto 10 anni fa, che diciamo tenevo nel cassetto e me l'ho anche un po' scordato di averlo. Niente, questo lavoro è tirato fuori tramite una coincidenza, diciamo. Una sera stavo vedendo nel film d'Europa 51 e ho riconosciuto come set Pina Valle, no? E essendo cresciuto in quel quartiere, mi sono chiesto se mai, essendo Europa 51 nel periodo del neorealismo, se mai qualche vecchio di Pina Valle avesse mai partecipato come comparsa a quel video. E da là è nato come un gioco, diciamo, un'esperienza molto interessante, in quanto insieme al mio amico Raul Garcia ci siamo armati di telecamere e microfono e siamo andati al centro anziani di Pina Valle. È stato un percorso, cioè diciamo ogni domanda che facevamo imparavamo qualcosa di più. Abbiamo imparato del fatto, vabbè, a parte le comparse che fecero tutti là all'epoca nel film, ma soprattutto diciamo la storia di Pina Valle, no? Il sì, fatto sì. Che quando Mussolini fece la marchetta per i patti lateranensi al Vaticano, costruendo e demolendo i quartieri popolari di Borgo Pio, via delle Palline e così via, mandò tutto il popolo, il vero popolo romano, che poi nell'epoca fu chiamato borgiataro, così via, lo mandò dentro le periferie, no? Dentro le borgate. Sì, sì, sì, sì. E Prima Valle era particolare perché, essendo Prima Valle all'epoca un quartiere costruito sopra un montarozzo, con un'unica strada che bastava che si mettesse una camionetta della polizia e nessuno entrava o usciva da Prima Valle, a Prima Valle furono mandati, diciamo, molti anarchici, molti comunisti, prostitute, diciamo la parte un po' più che dava disagio al regime fascista, che doveva dimostrare l'impero, il valore dell'impero, no? Una sorta di ghetto, insomma. Una forma di ghetto, infatti poi questo poi ha portato anche al fatto che nella storia, anni 70 e così via, Prima Valle un po' si è notata come all'epoca quartiere abbastanza di sinistra e così via. E niente, ho scoperto tante cose, ho scoperto a parte il fascino che hanno le persone anziane che ti raccontano i periodi storici che a noi non vengono raccontati, in prima persona ti raccontano del boom economico fatta sulla pelle di questi poracci che mo si ritrovano 100, 2, 3, 400 euro di pensione e così. E poi gli aneddoti sul film eccezionale Rossellini, che veramente aiutava le persone, pagava le pigioni, gente, addirittura c'è il pezzo di quello che nel film fa il criminale, che mi ha affascinato tantissimo, perché praticamente lui si era scocciato di ripetere sempre la stessa scena e un giorno non si è presentato al lavoro, diciamo, no? E lo so, gli è andato a prendere a casa. E oggi c'è quella semplicità di un ragazzo che non gliene fotte niente di andare al cinema, ma vuole stare con i suoi compagni a giocare a pallone per strada, oggi ce la scordiamo. E poi un'altra cosa molto carina che è successa all'epoca, che poi questo video fu proiettato nei lotti di Prima Valle, proprio dove è stato girato il film, la scena appunto del ragazzo che aveva fatto la rapina nel film, e è stato proiettato sia il documentario che il film Europa 51 tramite Paolo Luciani di Passeggiate Romane del Comune di Roma, no? E è stato entusiasmante vedere, a parte anche le persone anche di destra, diciamo, affascinate dai racconti e affascinate dalla vera storia raccontata dai popolani, no? E vedere la commozione delle persone anziane che rivedevano la Prima Valle dell'epoca e si ricordavano appunto della loro giovinezza e così via. Senti, sì, dimmi. Riccardo, quante persone siete riusciti a contattare per questo lavoro? Ma guarda, io dopo un po' ho dovuto stoppare le persone, perché ogni giorno imparavo qualcosa di più, ogni giorno una persona anziana mi si presentava e mi raccontava un aneddoto, una cosa del genere, e se diciamo avessi voluto, infatti sono stato un po' un cialtrone in questo, se avessi voluto avrei potuto approfondire molto, però facendo anche questo di mestiere un po', diciamo, da un taglio, no? Però ripeto, la cosa più affascinante è sentire proprio le persone anziane che raccontano i loro passati, sì, periodi, sì, sì, storici che a noi non ci racconta nessuno, e veramente anche tutte le deportazioni fatte appunto all'epoca da Roma, quando Roma fu distrutta, di tutti i quartieri popolari, se noi oggi non viviamo al centro, il popolo romano non vive al centro, ma se lo vive solo il turista o l'americano ricco o l'italiano ricco perché si può comprare la casa, è anche dovuto a quello, perché all'epoca furono demoliti tutti i quartieri di Piazza Venezia, i quartieri popolari, sì, tutti, sì, i quartieri, sì, e furono mandati gente a Garbatella, gente a Prima Valle, gente a Shanghai, dicono, che ancora non ho capito quale sia, e così via. Senti Riccardo, per adesso l'avete messo online su Vimeo e state continuando in qualche modo un percorso di memoria del quartiere? Ma guarda, di memoria del quartiere uno ne potrebbe raccontare tante, perché è un quartiere popolare, ha sempre una storia e ogni anno è una storia a sé. Oggi purtroppo è un quartiere che sicuramente dal punto di vista estetico è rinato finalmente, però è anche un quartiere con grossi problemi, si vedono, cioè quando è stato 2 anni fa ci sono stati dei morti, essendo un periodo di crisi, come dice il documentario, alla fine dice se non c'ho un pezzo di pane non è che a mio figlio gli posso di faltava il giro del tavolino, se non dai da lavoro alla gente si arrangia. Quindi in un periodo di crisi come questo, un quartiere popolare è il primo sicuramente che ne risente. E lavori ora non ne stiamo facendo, anche perché purtroppo la vita quotidiana, il lavoro non è che ti dà tanto tempo libero per poterne fare. Abbiamo delle idee in mente, ci piacerebbe farle, però ripeto, bisogna ricavare sempre il tempo. Certo. Va bene, allora magari a risentirci presto, Riccardo. Volentieri. Allora, un abbraccio a te, a Prospettiva Video. Grazie mille. A presto, ciao. Ciao. Riccardo Zoffoli, regista del documentario La montagna di sapone, e sul sito della radio www.ondarossa.info, la voce trasmissioni visionari, trovate anche il link che vi rimanda al documentario online gratuitamente. Visionari ogni giovedì dalle 14 alle 15, però dovremmo avere anche un altro ospite, visto che siamo già in orario di chiusura, ma ce la facciamo, anche perché dopo di noi al momento non c'è nulla. È con noi Sergio Sozzo, curatore del secondo ciclo dello spazio permanente Corso Salania, Sentieri Selvaggi, è cominciato il 26 settembre. Intanto ben ritrovato a Visionari, Sergio. Ciao, ben ritrovati, ciao a tutti. Allora, intanto facciamo direi un bilancio di quella che è stata la scorsa stagione, dedicato questo spazio dedicato a Corso Salani. Com'è andata? È andata bene, uno perché siamo riusciti a ritrovare tante cose che probabilmente si erano viste pochissime volte, alcune probabilmente una volta sola, quindi siamo riusciti per la prima volta a mostrare tutto quello che Salani aveva girato da regista, tolto poi in realtà quel footage che stava preparando, che si è potuto vedere però alla Mostra del Cinema di Venezia, altrove, il suo film purtroppo non finito, che poi è stato mostrato invece all'interno di Cinema Corsaro a Venezia qualche settimana fa. Per cui è andata bene, uno proprio dal punto di vista così di chi è stato interessato al cinema di Salani, appunto abbiamo mostrato veramente tutto. Poi tanti amici, tanti colleghi, tante persone che hanno lavorato con lui in più di un'occasione sono venuti a trovarci e ci hanno lasciato una serie di bellissime testimonianze, di ricordi proprio del modo di lavorare, dei film, delle esperienze fatte insieme a Salani, insomma un bel repertorio che abbiamo costruito, abbiamo filmato, che adesso è possibile vedere sul sito ufficiale dell'associazione Corso Salani, corsosalani.it, tra le attrici, i produttori, i fonici, insomma tutte le persone che facevano fin dopo film il cinema di Salani. Per cui soprattutto ecco un archivio vitale che ci è sembrato giusto riproporre appunto anche in questa stagione. A questo punto mi viene in mente che visto che esiste un sito internet Corso Salani, potrei mandare anche i link delle registrazioni delle puntate in cui è stato ospite qui da noi Corso, perché no? Assolutamente, ma è Margherita Salani, la compagna di Corso che cura l'associazione e anche il sito, a cui noi di Sentieri Selvaggi stiamo dando una mano da questo punto di vista, ne sarà sicuramente contenta. Noi stiamo cercando, insieme anche alla Cineteca di Losanna, stiamo cercando di costruire proprio un grosso archivio Salani, per cui assolutamente tutte le testimonianze sono più che ben accette. Senti Sergio, Per questo secondo ciclo, quali sono le scelte che avete fatto, insomma i punti di continuità, ma anche le novità rispetto alla passata stagione? Sì, innanzitutto quest'anno mostriamo anche un po' dei film che Corso ha interpretato solo da attore per la regia appunto di altri cineasti. Non li mostriamo tutti, abbiamo fatto delle scelte, soprattutto quelli poco visti. Ad esempio ieri abbiamo iniziato con Nel continente nero, che è la seconda collaborazione tra Salani e Marco Risi. La prima, Il muro di gomma, ci sembrava sostanzialmente troppo celebre, no? Troppo vista, mentre invece Nel continente nero, che è un film con Diego Abbadantuono, è un film un po' scomparso anche dalle programmazioni TV. Marco Risi non è potuto essere presente di persona, però ha mandato una bella lettera ricordo appunto di quello che è stato il rapporto con Salani in questi due film. Quindi vedremo un po' delle cose che ha fatto. La seconda delle serate dedicate al cinema d'attore di Corso è a dicembre, il 19 dicembre, quando faremo vedere Mar Nero di Federico Bondi. Sì. Per quanto riguarda il regista, invece abbiamo un po' stravolto la continuità cronologica che invece avevamo seguito fino a giugno. Facciamo dei mini cicli tematici che ci sono sembrati anche un modo più interessante per mettere a colloquio, a conversazione tra di loro, dei film magari non contingente dal punto di vista cronologico, ma che invece recuperano quelle che sono le grandi tematiche del cinema di Salani, quindi soprattutto lo sguardo femminile, il vagabondaggio nei luoghi di confine, questa Europa nascosta, questi angoli appunto di confine che si toccano sempre, e anche per esempio un miniciclo Per forza di cose dedicato a Paloma Caglie, che è stata il corpo femminile del cinema di Salani per almeno 4 film. E quindi ora partiamo appunto fra 2 mercoledì con questo miniciclo dedicato allo sguardo femminile, che abbiamo chiamato Occhi stanchi, come uno dei suoi film più celebri, e mostreremo appunto Occhi stanchi, Occidente, un po' dei confini d'Europa, e poi Mirna, che è l'ultimo film. Dopodiché da gennaio abbiamo invece il ciclo dedicato tutto ai film con Paloma Caglie, che secondo me tra l'altro sono le cose più belle, più pure, più avanzate da un certo punto di vista che Salani ci ha lasciato. Mm-hmm. Ecco, per chi non conoscesse la figura di Corso, Sergio, quali sono secondo te gli elementi che contraddistinguono il suo lavoro, la sua opera? Innanzitutto ovviamente il primo argomento, il primo termine è l'indipendenza, l'assoluta indipendenza. È Corso ha solito fare film veramente low budget, ma non low budget per modo di dire, troupe ridotta a 2-3 persone, 5 persone erano già delle troupe avanzate per lui, e partiva. Tutti i suoi film sono dei viaggi, sono delle esplorazioni di luoghi che diventano poi delle esplorazioni di luoghi interiori, un cinema molto molto intimo, anche ferocemente, violentemente intimo su se stessi, dove lui si mette sempre in gioco in prima persona, sempre appunto nel rapporto con una donna, con uno sguardo femminile. Quindi la città, la donna e lo sguardo di Corso entrano sempre in conflitto, sono molto spesso dei film conflittuali, però dove invece la narrazione fluisce in una maniera paradossale, tranne alcuni esempi estremi come ad esempio Il peggio di noi o Occidente, di solito invece fluisce in una maniera abbastanza lirica, dove anche le limitazioni del basso budget di questo sguardo, molto spesso amatoriale, quasi veramente da filmino familiare volutamente, diventano il modo per non avere più filtri, no? Per essere diretti in quello che si vuole mostrare. Sì. Sergio, indicativamente, quante sono le opere che presenterete nel corso di questa stagione? E poi come riferimenti diamo un sito internet per la programmazione? Sì. Allora, presentiamo una 15ina di film da regista e 5 film da attore. Sì. Per la programmazione, riselvaggi.it e corsosalani.it. Al momento c'è la programmazione solo di questo ciclo qui, appunto il ciclo Occhi stanchi, che va avanti ogni 2 mercoledì del mese fino al 19 dicembre, quindi il prossimo appuntamento è tra 2 mercoledì. Poi ovviamente pausa, Natale, Capodanno, da gennaio ripartiamo e andremo avanti fino alla fine di giugno come abbiamo fatto lo scorso anno. Con 2 appuntamenti settimanali sempre? Sempre con 2 puntetti mensili, 2 mercoledì esterni. Sì, sì. Bene Sergio, allora i riferimenti li abbiamo dati, un abbraccio e a risentirci alla prossima. Assolutamente, vi aspettiamo, noi siamo in via Carlo Botta 19, che è dalle parti di Via Merulana, dietro il Teatro Brancaccio. L'ingresso è gratuito, iniziamo alle 20:30, ogni sera ci sarà un ospite che racconterà un po' il film e anche il cinema di corso. Bene, bene, sarà un piacere. Ciao Sergio, a presto. Ciao, ciao, grazie, ciao. Ciao. E con Sergio Sozzo di Sentieri Selvaggi concludiamo la puntata di oggi. L'appuntamento con Visionari, il cinema su Onda Rossa, è per giovedì prossimo, sempre dalle 14 alle 15. Per contattarci l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info, per gli sms in diretta il numero è 342-357-4357. Per quanto riguarda la scaletta, tutte le informazioni le trovate sul sito della radio www.ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari. Gli ospiti, ci sono gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di domani venerdì 28 settembre, i nostri suggerimenti sui film già in programmazione a Roma e provincia, la programmazione in TV con i film sul piccolo schermo, poi gli altri appuntamenti della settimana in giro per l'Italia, il link per ascoltare la puntata precedente e in fondo il link invece che rimanda a tutte le puntate del 2012. Buon proseguimento, alla settimana prossima.